Yo. Molte volte non funziona e sono solo circostanze, vittime di un mondo che ti crea false sapienze. Trovi persone che c'è intorno, ma poi chi mente viene a galla come uno stronzo. Ci stanno distruggendo, reagisco qui soccombo. Se non te ne sei accorto un giro tondo e tu stai al centro, ti stanno usando e consumando fino all'osso. Mi sono mosso ma sommersa, sono rimasto già da un pezzo. E quindi adesso non è facile fidarsi, non so come. Ognuno per se stesso e si va verso l'estinzione. Tocca correre da soli, sai perché? Troppe trappole, troppi giocatori che fanno fuori gli avversari, per i contenti che si indossano gli allori. Qualcosa che non va, voglio la mente sgombra, non vivere nell'ombra di chi inculca ste cazzate, di chi offusca poi affonda la realtà che ci circonda. Come sei messo in contesti in cui ragioni su ciò che ti è concesso, non su quello che ti spetta di diritto. Cazzo, liberiamo sto cervello, voglio pensieri liberi, capire la realtà ma non con quei criteri stupidi. Essere vivo e non far parte di quei numeri sono indizi di un sistema che poi fotte chi se la dà gambe, chi combatte lo sconfigge. Trattati come un gregge, indovina ora chi sono. La pecora smarrita, l'unica sopravvissuta che ora è diventata uomo. E c'è qualcosa che non va, tocca a noi risolvere. Io ti do sostanza contro chi ti dà la polvere. A volte è facile riuscire a non pensare e rifugiarsi in un pensiero fa star male. La cattiveria e le persone finiscono nel cuore, ma adesso ascoltate una mia opinione. A volte è facile riuscire a non pensare e rifugiarsi in un pensiero fa star male. La cattiveria e le persone finiscono nel cuore, ma adesso ascoltate una mia opinione. Depressione. E lei cosa mi dice, lei dottore? Di questa vita adesso so solo che all'orrore, da quando ho capito che si spegne ogni emozione. Il rap lo vorrei proprio come professione, ma quanto pare che serve una raccomandazione. Che tutto quel corrotto, beh già si sapeva, ma questa è vita vera, poca la gente che spera. E la gente a volte qui campa di minacce, anche i laureati in società non hanno marce. Non seguire mai e poi mai le mie tracce, questa società ha le liste troppo sazie. E dunque io lavoro, rinuncio al sogno d'oro e scopro docilmente un po' chi sono. Io ho paura di affondare, ho paura di cadere. I tempi ormai adesso mi vogliono ammazzare. Nessuno dà niente per me e da nessuno, ma in fondo siamo tutti alla ricerca di qualcuno che ci possa aiutare, che ci possa cambiare. Non me ne frega un cazzo, ma toglietemi sto male. E oggi non lo so dove cazzo sbatterò, arrivederci sempre se un giorno io ci sarò. A volte non lo so e a volte non lo so e a volte non lo so, io a volte non lo so se. A volte è facile riuscire a non pensare e rifugiare.